come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui 18:37 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, che è il vostro luogo quotidiano di incontro dove esprimere le vostre opinioni fino alle 21. Il numero ve l'abbiamo detto, anzi no, numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, TG2. Napoletano in Sicilia per le celebrazioni dell'Unità d'Italia. L'unità è una garanzia per il futuro, dice il capo dello Stato. La secessione è un salto nel buio. Intesa per modifiche alla legge sulle carceri tra i ministri della Giustizia e dell'Interno. Salta la messa in prova, non sarà automatica la pena a domicilio. Benedetto XVI in Portogallo per la visita apostolica. La pedofilia è un peccato terrificante, ha detto il Papa, la Chiesa perseguitata dai suoi stessi peccati. Vicino a Torino un uomo uccide la moglie con 50 coltellate davanti all'assistente sociale. A Gela una guardia giurata uccide la moglie di 21 anni e scappa con la figlia, arrestato dalla polizia. E andiamo a studio aperto. Due tragedie familiari in poche ore nel torinese. Soffoca l'anziana zia, poi tenta il suicidio. Voleva morire, l'ho aiutata, spiega i carabinieri. Al consultorio per discutere l'affidamento delle figlie uccide la moglie con 50 coltellate. Incubo Vulcano. La nube è tornata sui nostri cieli, ma per ora nessun blocco degli aeroporti. Cancellati alcuni voli a Fiumicino e resta l'allerta. A letto con Sarkozy, ecco il motivo dei ritardi di Carla, quando la premier dame tra le braccia del marito dimentica gli impegni, anche quelli con la regina d'Inghilterra. Il piccante retroscena svelato al mondo da Michelle Obama. Bene, vi ripeto il numero 800 24 00 24, un nuovo mito, Don Giorgio De Capitani, lo lanciamo in questo modo, lo sentite tra un attimo, Don Giorgio De Capitani, scatenato. Compra da via del mare o in montagna, l'altro in centro Roma, un altro si compra la Ferrari o si prende 100 Escort e poi li vedi in TV o in Parlamento a parlare agli operai o a discutere delle fasce più deboli da proteggere. Ed eccoli questi bastardi che fanno le ferie quando vogliono, se lo possono permettere con il super stipendio statale che hanno. A spese nostre. E questi banditi onorati dal popolino, te li vedi divertirsi in Parlamento dietro l'apparenza di una dialettica che fa parte del gioco perverso di chi se ne frega del bene comune. La dialettica, per coprire meglio il culo sporco di questi svergognati, si riduce a rissa o litigio, che non va oltre il tempo stabilito dell'opportunismo, che chiamano maturità democratica. Bastardi, ladri, farabutti, onorati da un popolo coglione. Non basta più dire basta, siamo stufi, non ne possiamo più, è ora di dare un taglio netto, bisogna reagire. Sì, non basta più dire basta. Ormai lo si ripete fino alla noia e lo si ripete tra l'indifferenza generale. E potere se la rite. Il popolino è una massa di rimbambiti al servizio di banditi. Don Giorgio De Capitani, parroco di un piccolo paese nella Brianza, non lontano da qui, la sfida di Bocchino. Onorevole Bocchino, parliamo del caso Fini-Berlusconi. Secondo lei Fini divorzia da Berlusconi? E soprattutto, è vero che gli daranno Gasparri un fine settimana sì e uno no? Guardi che Gasparri nel fine settimana è simpaticissimo, quindi possono anche lottare per averlo tutti in fine settimana. E comunque a Berlusconi costerebbe meno di Veronica. E via con la battuta su Veronica. 300.000 euro più l'utilizzo della villa, Parentesi. Ancora Bocchino. Bocchino, lei come giudica il fatto che la sede del PDL sia in via dell'umiltà? Un ossimoro o una presa per il culo? Un po' un ossimoro, però devo dire che molti colleghi quando si avviano verso la sede del partito dicono vado in via dell'umiliazione. Lei fa battute, Bocchino? Non posso. Lei non anche può. Qui? Lo sa che lei non può. Eccoci con il predellino Giorgio Stracquadanio, deputato del PDL. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori della Zanzara. Allora, anche lei quando va in via dell'umiltà, come dice Bocchino, si sente di andare in via dell'umiliazione? Tutt'altro. Io mi sento di andare in via della, del mio partito e dell'umiltà che non è la modestia. Però, sa, a ciascuno le sue doti. E cioè, mi spieghi bene, secondo lei che tutto è umiltà e non aver modestia, mentre invece c'è qualcuno che non ha umiltà ed è molto modesto. E io la sento molto male, Stracquadanio, molto male. Adesso cercheremo di ricollegarci. Intanto Gustavo da Varese, buonasera. Buonasera. Dica. Io mi ricollego alla polemica Saviano. Volevo porre due riflessioni. Primo, senza il libro di Saviano ci sarebbe stata la controffensiva più grande della storia della Repubblica Italiana contro una mafia? E se al posto del leghista Roberto Maroni al Ministero degli Interni ci fosse stato qualcun altro di qualsiasi altro partito, quello stesso contrasto, quella stessa grande battaglia che stiamo vivendo e che fortunatamente continuiamo a vivere, ci sarebbe stata? Questa è la riflessione e soprattutto la invierei ai parlamentari del Sud, perché è vero che la mafia... Mi scusi un attimo Gustavo, adesso abbiamo il traffico. Secondo lei se Saviano non avesse scritto Comorra il governo non avrebbe preso provvedimenti contro il clan dei Casalesi? Cioè la questione dei Casalesi è venuta, è diventata di interesse diciamo del governo, delle forze dell'ordine solo dopo le accuse di Saviano? Lei è un buon giornalista. No, ma è una domanda, Gustavo, una domanda che le faccio. Secondo lei è andata così? Io vedo dalla realtà sì, perché i Casalesi c'erano prima e c'erano dopo. Però il libro di Roberto Saviano ha costretto l'opinione pubblica, che ha fatto pressione sulla politica e quindi ha costretto la politica a prendere delle decisioni. Questo è un fatto positivo, perché significa che quando l'opinione pubblica, quando l'informazione funziona, la politica... Cioè, secondo lei, prima di Saviano, la lotta ai Casalesi veniva fatta, ma con così, insomma, senza troppa convinzione? No, allora, in questo caso no. Allora, l'illegalità è diffusa in Italia, per cui il contrasto, le forze impiegate sul contrasto, magistratura e forze sono enormi. Però? Probabilmente hanno visto la forza dell'opinione pubblica, come avviene negli Stati Uniti. In quel momento hanno concentrato di più l'attività nei confronti di quel tipo di contrasto. Abbiamo il traffico. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare. E ce lo ricordiamo sempre, siamo in collegamento ancora con Giorgio Stracquadanio, eccoci qui. Va meglio adesso? Leggermente meglio. E questi sono i chiavi. Cerchiamo di resistere. Allora, un suo collega che si chiama Stiffoni, sì. Quando ha sentito la sua proposta, che poi dobbiamo chiarire meglio, ma è stata sintetizzata, più soldi ai deputati che lavorano, ha detto forse Stracquadanio ha bevuto qualche goccetto in più. Sono astemio. È astemio, dunque alcol proprio non è bevuto. Sì, e poi non era una proposta. E cos'è? Era una valutazione. Rispetto a una domanda. Rispetto a una domanda, che la domanda era, ma come mai tanti deputati non sono in aula? Allora ho fatto i conti e ho detto, non sono tantissimi in fondo, perché di solito siamo in 500 a votare, 50 sono membri del governo, sto facendo conti un po' grossolani. e siamo a 5,50, 6,30 ne mancano una settantina, ottantina a seconda, no? E dico, questa settantina, ottantina non viene regolarmente. E allora l'intervistatore mi dice, ma perché? Non fanno nulla? Sono dei fannulloni? Dico, no, perché fanno un altro lavoro. E fanno un altro lavoro, di solito più redditizio, che occuparsi del Parlamento. Allora dice, ma secondo lei allora c'è rimedio? Dico, sì, ci sarebbe un rimedio. Tagliare il numero dei parlamentari. Il rimedio è quello di, ma può essere anche ridurre il numero dei parlamentari, questo non è. Potrebbe anche essere mettere una incompatibilità tra parlamentari e membri del governo, di modo tale che i membri del governo, che abbiano le stesse prerogative dei parlamentari, ma siano più liberi di agire come membri del governo, non siano costretti a fare la spola, no? Tra il lavoro dei parlamentari e il lavoro del sottosegretario. Ma il rimedio, secondo me, migliore di tutti è quello di incentivare il meglio della nostra società a dedicarsi alla politica. E come si giudica? Chi è che giudica qual è il meglio, quelli che sono i migliori tra i parlamentari? Questo lo giudicano i cittadini elettori. No, appunto. Però gli incentivi per cui la politica non sia l'arte di chi non ha un'arte, e neanche una parte, ma che sia, che attragga i giovani migliori che escono dalle nostre università, potrebbe essere. Però scusi, per quello c'è già lo stipendio, che per carità, io non faccio demagogia sugli stipendi, dei deputati. Guardi, posso dirle, non è che sia. Se io le faccio i conti complessivi, e le posso fare i conti complessivi, mano, dal totale lordo che noi riceviamo, detratte tutte le spese che sono a nostro carico, se uno lavora seriamente, non è che prenda questa, cioè guadagna, voglio dire, come un caporedattore, al massimo, parlando di giornalismo, o come un dirigente, come un quadro di buon livello, non è, però ha una responsabilità molto più alta. Cioè lei si sta lamentando del suo stipendio da deputato, no? Non mi sto lamentando, io però voglio far presente, io mi sto lamentando del fatto che noi siamo considerati persone che non fanno nulla e prendono un sacco di soldi e hanno un sacco di agevolazioni. Se le racconto la mia settimana non le basta la trasmissione. Ma quanto prende lei esattamente? Guardi, io incasso dalla Camera dei Deputati 15.000 euro al mese. Di questi, 5.000 sono la vera e propria indennità, circa 5.000 sono il rimborso delle spese per la permanenza a Roma e per altre spese, e 5.000 sono per lo svolgimento dell'attività politica. Beh, cioè non è poco, se vuole le posso documentare come sono tutte ampiamente spese, sia i 5.000 per se uno viene a Roma e ha, come io per esempio ho una casa, 1.500 cioè a lei quanti soldi restano in tasca? A me, come netto di retribuzione, netto intorno ai 4.000. No, beh, su 15.000 4.000 non è possibile. Vuole che gli dei documenti, Cruciani? No, ma 4.000 su 15.000 e quante spese ha? Glielo stavo spiegando, ho 1.500 euro dell'appartamento. Sì. Ok? Sì. 500 euro tra spese di pulizie, lavanderia, manutenzione minima dell'appartamento. Poi ovviamente c'è quelli di casa mia a Milano. Ok? Sì. Poi e siamo a 2.000. Sì. Ok? Ho circa 500 euro fisse di telefono che ci paghiamo noi. E siamo a 2.005. D'accordo? Sì. Ho 1.000.000 di euro di ammortamento auto e benzina per i viaggi che faccio in tutta Italia, per recarmi a parlare dove mi chiedono di intervenire. E ho una 500, 1.200 cilindrata, e siamo a 3.000. Ok? Sì, cioè adesso sull'ammortamento si può discutere comunque. Perché si può discutere? Non l'avrei comprata, scusi, Cruciani, non è un'altra Milano. Vabbè, va bene, poi. Ecco, come si può discutere? La macchina aziendale non la calcola? Poi? Un dirigente aziendale, tutte queste cose ce l'ha dall'azienda. Sì. Un deputato no. Però dobbiamo ancora arrivare agli 11.000. Le stavo spiegando. Sì. Dopodiché siamo a quanto arrivati? A 3.000. Sì, 3.000. Ecco, ho 1.000.000 di euro di spese di documentazione, libri, giornali, riviste e altre cose che io devo utilizzare, connessioni telematiche. e così via. Che vabbè, insomma, la vita, insomma, di tutti. Ecco, quindi che, cioè, se uno lavora seriamente, sì, e poi di solito su dossier su cui io non sono competente, commissiono degli studi a degli giovani studenti universitari. Che lei paga, va bene. E che gli do, certo. Però, insomma, fa? Adesso, francamente, 5.000 li metto nel bordellino e ho fatto. Lei, quella è una sua scelta, però. Quella è una sua scelta. A lei personalmente rimangono quelli, ma non mi può dire che lo stipendio di 15.000 euro, diciamo, che riceve. Ah, sì, però, mi scusi, Cruciani, quella è la mia scelta. Ma certo. Il bordellino è poco più di un blog di comunicazione, che si dice che tutti dovrebbero avere con un rapporto con gli elettori. Comunque, no? lei sta dicendo. Io sto dicendo che se uno fa seriamente, sì, questo mestiere, sì, ecco, ha la retribuzione di un medio quadro aziendale. Tutto quello che ci viene dato, in realtà, se fossi in un'azienda, sarebbe a carico dell'azienda. Ho capito. Dunque, secondo me, non le ho messo pranzi e cene, sì, che tante volte ovviamente offro. Per ospiti. Ma lei può andare alla camera e non è che costi moltissimo rispetto a. Ma rispetto non posso portare ospiti. Non può portare. Se lei viene alla camera. Infatti, io quando non vado, non ho ospiti, vado a casa e spendo pochissimo. Ho capito. Perché faccio la spesa. Senta, sta qua dall'ultima cosa, perché abbiamo. Sono una persona normale. Sì, no, ma su questo non c'è dubbio. Abbiamo il giornale radio, un'ultimissima cosa. Dunque, secondo lei, comunque più soldi bisogna darli? No, io ho detto un'altra cosa. Bisogna applicare criteri meritocratici. Hai capito? Ma in base a che cosa uno dovrebbe dare più soldi? Allora, alla presenza, al numero di proposte di legge, a che cosa? Intanto, per esempio, noi siamo misurati solo sulla base dei voti d'aula. In questo momento io ne ho perso qualcuno per intrattenermi piacevolmente con i suoi ascoltatori e con lei, sì, e forse non riesco ad arrivare ad avere la diaria di oggi, 400 euro di penalizzazione. Beh, no, questo mi dispiace. Ma può succedere, questo fa parte degli incerti del mestiere, non importa. Dopodiché, però può darsi di no, adesso dipende dal numero di voti che si avranno complessivamente. Vabbè, insomma, uno per essere pagato di più, secondo lei, rispetto a questi 15.000 euro, cosa deve fare? Le presenze, che cosa? Ho misurato sul mio lavoro in commissione. Ma questo è difficile misurare. Abbiamo il giornale radio, torniamo se vuole subito dopo. Eccoci qui di nuovo con la zanzara dopo l'intervento che ha suscitato sms, mail, proteste soprattutto da parte di Giorgio Straquadani, ma abbiamo i titoli del TG3 prima. Napolitano a Marsala, penosi commenti liquidatori sul valore dell'Unità d'Italia, ogni idea di secessione è un salto nel buio. Fallito l'accordo tra laburisti e liberali, giallo sulle dimissioni del premier Gordon Brown, si riapre in Inghilterra la strada per un governo Cameron Clegg. Dopo il boom dietro fronte delle borse, Draghi avverte, ci vorrà tempo per battere la speculazione, il fondo monetario in Italia crescita lenta. Emergenza carceri, cambia la norma voluta da Alfano ma criticata dalla Lega, ultimo anno di pena ai domiciliari solo su decisione del giudice. Mio padre ne era convinto, Berlusconi è stato una vittima della mafia, parla Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo. Il Papa in Portogallo, le più grandi persecuzioni alla Chiesa vengono dai suoi stessi peccati, lo scandalo della pedofilia nei segreti di Fatima. L'ora di religione contribuirà a creare il credito scolastico, il Consiglio di Stato dà il via libera al ministro Gelmini, ma la decisione fa discutere. Abbiamo anche Sky TG24. Il Papa in Portogallo, le sofferenze di oggi della Chiesa annunciate nei misteri di Fatima. Per Napolitano, penoso chi liquida l'Unità d'Italia, la secessione è un salto nel buio. Il Fondo Monetario avverte, in Italia la crescita è lenta, da noi salari più bassi dell'area OCSE. Alfano trova l'intesa con la Lega sul decreto svuota carceri, sarà il giudice a decidere. Ciancimino Junior, Berlusconi fu vittima della mafia che voleva condizionarne le scelte. Minori in vendita, video pedofili, a Roma indagini su un gruppo di bengalesi. 50 coltellate alla moglie davanti all'assistente sociale, omicidio nel torinese. Gran Bretagna, Clegg si riavvicina a Cameron, Brown si dimetterà da primo ministro. Calciopoli, è il giorno dell'accusa, Ancelotti, Moggi tramava contro il Milan. mondiali. Ecco i magnifici 30 di Lippi, fuori Totti. Bene, alle 19.21, 800 24 00 24, abbiamo sempre in collegamento Giorgio Stracquadanio dalla Camera dei Deputati, ma vi facciamo riascoltare un paio di passaggi dell'intervento precedente che hanno acceso molto i nostri ascoltatori. Il primo, eccolo qui. Dal totale lordo che noi riceviamo, detratte tutte le spese che sono a nostro carico, se uno lavora seriamente, non è che prenda questa, cioè guadagna, voglio dire, come un caporedattore, al massimo, parlando di giornalismo, o come un quadro di buon livello, non è, però ha una responsabilità molto più alta. Questo sullo stipendio dei deputati, ancora un altro passaggio. Io incasso dalla Camera dei Deputati 15.000 euro al mese, di questi 5.000 sono la vera e propria indennità, circa 5.000 sono il rimborso delle spese per la permanenza a Roma e per altre spese, e 5.000 sono per lo svolgimento dell'attività politica. Stracquadanio, mi hanno scritto nel frattempo un centinaio di persone che dicono di essere dei quadri aziendali, i quali sostengono che non arrivano mai a quelle cifre che lei ha detto, ma guadagnano molto molto meno. Io parlo di aziende di una certa dimensione. Beh, io ho qui anche la media italiana, ho qui anche la media italiana che è molto inferiore rispetto a quello che lei ha detto. Su quante mensilità? No, beh, è sulla media italiana, ho delle cifre sulla media italiana che è molto inferiore. No, no, 9.000, non mi ricordo quant'era, 9.000 lordi, 9.000 lordi, ma... qui io ho detto 5.000. Come, scusi? E io ho detto 5.000 netti. No, lei ha detto 15.000. No, qui stiamo parlando di 15.000. Perdoni, ma sulle spese sono pagate, la scrivania è pagata, Tutti, e che c'entra? Ma quello anche la sua scrivania è pagata. Anche la sua scrivania è pagata. No, mi perdono. No, Cruciani. E come non è errore? Ma no, il mio come ufficio no? Milanese, me lo pago da me. Ma lei mica è detto che uno deve avere un ufficio milanese, che significa? E sono eletto a Milano, cosa devo fare? Beh, ho capito. Le ricevo in mezzo alla strada? Ma no, ho capito, però lei ha detto all'inizio che le restano 4.000 euro, giusto? Allora, sono 4.000. No, ma questi 4.000 euro, secondo me, lei è quello che è quello che mette in banca, cioè al di là di tutto, cioè, finite le spese e tutto, le restano 4.000 euro. Quegli altri li spendo, non ci siamo capiti, Cruciani. Ho capito, le spende per vivere. Per vivere, non ha capito. Non ho ancora comprato un abito quando le ho detto quei conti lì. Non ho ancora comprato senza entrare nel dettaglio, però, Stracquadanio, senza entrare nel dettaglio, dire che lo stipendio da 15.000 euro lordi che lei riceve dalla Camera dei Deputati è uno stipendio così. Cruciani, lei imbroglia le carte. No, imbroglio 15.000 euro, lei quello ha detto. No, in buona fede, mi imbroglio le carte. E chi ha detto che lo stipendio? Ho detto la somma che ricevo. Vabbè, la somma totale. Allora, mi perdoni, mi faccia dire un'altra cosa. Dica. Prima che confondiamo le idee. Allora, io le parlo di un amico che è dirigente di una impresa che ha 200 dipendenti, d'accordo? Sì. Lui ha la macchina di servizio, ok? Che è una macchina di cilindrata medio-alta. Ma sarà il primo dirigente, diciamo, direttore amministratore delegato, cos'è? No, è un dirigente, il direttore commerciale. Direttore commerciale, d'accordo. Dipendenti. Ma per la miseria, c'ha più responsabilità lui verso l'Italia o più io? Sì, ma non sto dicendo che il direttore commerciale di un'azienda guadagna... Che è più conveniente che dobbiamo spingere i nostri giovani a cercare di andare a fare i direttori commerciali di un'azienda di 200 dipendenti piuttosto che avvicinarsi alla vita politica. Beh, forse è meglio che facciano qualcosa per diventare direttori commerciali di un'azienda piuttosto che aspirare al Parlamento, non lo so. Cioè... Quindi aspirino al Parlamento gente senza altre parte. No, ma va bene anche... Insomma, lei non mi può dire che si guadagna non così tanto da non attirare le persone in Parlamento, non è così. Cioè... Se si lavora, si lavora seriamente, la quantità di spese... che se uno lavorasse in un'organizzazione, guardi, io non voglio più soldi, io voglio che si distinguano bene quelle che sono le spese, i servizi, come in Inghilterra. Sa come funziona in Inghilterra? Come funziona? C'è l'indennità che va all'indennità, e le spese documentate che vengono rimborsate. c'è stato uno scandalo di recente, sì, no, ma questa... perché venivano fatte rimborsare anche le spese di casa, sì, tipo sì. la spesa alimentare, sì, tipo altre cose. Ecco, no, io vorrei. Scusi, lei però mi ha detto, lei però mi ha detto prima. No, quello va benissimo. Lei mi ha detto prima, basta. Quello per tutti, però non solo per i deputati. Ovvio, no, ma quello è chiaro. Ovvio. Però le allora, chiedo una cosa, lei prima mi ha detto, mi ha considerato come spese, per esempio, anche 500 euro per le pulizie. D'accordo, ma quello anche chi guadagna. Ma la casa io non la prenderei a Roma. Ho capito, ma anche chi guadagna 2000 euro magari si vuole pagare le pulizie. Cioè, non è che per forza. Scusi, Cruciani, l'azienda che la sposta in una sede di lavoro diversa dalla sua, le paga la casa e le paga. Ma non è detto, non è detto. Ma non è detto. Ma chieda. No, magari per due mesi, per tre mesi. Ma no! Ma se lei è stato assunto sede di lavoro a Milano e la spostano, ok? Beh, insomma, tutte dipende. Se vengono pagate, ma se no, perché avremmo la diaria? No, ma ripeto, questi sono tutti dettagli di una cosa più generale. Lei ha detto che 15.000 euro, compreso tutto, non dico che sia lo stipendio, compreso tutto, sono una cosa che insomma non è così appetibile. Se uno lavora, detto, se uno lavora, se uno lavora. Lei sa quante ore al giorno lavoro io? No, ma io ci credo che lei lavora tanto. Non so, dicendo. Lei ha una stima? Non so, sarà 16 ore, va bene? 16. Sì, esatto. 16. Sa quante sabati e domeniche lavoro? No, tutti immagino, tutti, se uno vuole fare, no, se uno tutti, vuole fare tutti, seriamente. Tutti non esageriamo. Vabbè, tutti, 40, che ne so, 40, 45. Una quarantina. Allora, le faccio ascoltare però Antonio da Roma. Va bene. Antonio. Pronto? Dica Antonio. Sì, buonasera. Senta, vorrei mettere una battuta all'onorevole Staguaragno, mi pare una roba dei regge, ma insomma, io sono un dirigente d'azienda, ho 20 anni di lavoro alle spalle. Lavoro in un'azienda di 1600 dipendenti, va sì, bene? Sì. Guadagno la metà di quello che guadagna l'onorevole Staguaragno. No, straguadagno, straguadagno. Fare mio fede, lo posso fare pure io. Certo, no, certo, allora deve dire bene, straguadagno, straguadagno. Non è una cosa, ma straguadagno. Faccio con mio fede che li storpia a piacere. Che storpia i nomi. Tra l'altro l'avremo ospite tra una mezz'oretta. Ecco, ho una responsabilità che non posso entrare in dettagli, ma se succede qualcosa, delle cose con responsabilità, io si ferma tutta Italia. E quanto guadagna? Bene. E quanto guadagna lei? Guadagno esattamente lordo, la metà dello stipendio guadagno. Cioè quanto? 8.000 euro mensili lordi. Che diventano 4.000 quando mi entrano in tasca. Ah. Ho la macchina aziendale, ma ho una trattenuta sullo stipendio per la macchina aziendale. Se vanno in trasferta, nessuno si sogna di pagarmi una casa e tantomeno le pulizie. Quindi, per avere questo guadagno, per cortesia, venga a vivere in questo paese invece di inventarsi le cose. Va bene. E per cortesia, alla finisca dipendeci per i fondelli, perché voglio dire, un'ultima cosa, scusi, vogliamo parlare di pensioni? Io devo aspettare almeno 40 anni di lavoro per andare in pensione. D'accordo, grazie. Bene. Dopo 5 anni in pensione. No, ma non è vero questo, dopo 5 anni non è così. Una legislatura. No, no, per cortesia, ma non è che lo prende subito, non è che la prende subito la pensione, la pensione si prende sempre dopo. Comunque è vero che sì, la questione delle pensioni è diversa rispetto a quella degli altri cittadini. Marco, provincia di Bergamo, ancora per Straguadagno. Buonasera. Dica. Anch'io sono un dirigente d'azienda, io prendo in busta paga 6.400 euro lordi il mese. La sua azienda che azienda è? La sua azienda che azienda è? Noi siamo un'azienda, una multinazionale. Siamo 200 siamo 130 dipendenti, io ho la responsabilità diretta perché mi occupo, sono direttore commerciale. I numeri di cui parla l'onorevole, cioè probabilmente li prenderanno i bancari amici degli amici. Vabbè, adesso i bancari, amici degli amici, non c'entra niente. Comunque lei dice, io prendo delle cifre che sono lontane da quelle che dice Straguadagno, così? Io prendo delle cifre che sono lontane e faccio 90.000 km l'anno in auto. Cioè, che devono capire che la realtà non è solamente stare a Roma, ma la realtà del mondo del lavoro. È gente che si fa al mazzo 12 ore al giorno. E le 16 ore di un parlamentare, scusatemi, sì, ma non possono essere paragonate alle 12 ore o alle 10 ore di un lavoratore o di un operaio. No, questo mi scusi, vabbè, poi facciamo rispondere Straguadagno, ma insomma non è che adesso fare 90.000 chilometri e fare bene il lavoro da parlamentare, sono lavori diversi, l'impegno ci può essere comunque. La ringrazio, Marco. Bastardi, ladri, farabutti, onorati da un popolo coglione, non basta più dire... Basta, siamo stufi, non ne possiamo più, è ora di dare un taglio netto, bisogna reagire. Sì, non basta più dire basta, ormai lo si ripete fino alla noia e lo si ripete tra l'indifferenza generale. E potere se la rite, il popolino è una massa di rimbambiti al servizio di banditi. E questo era Don Giorgio De Capitani. Stracquadano, vogliamo rispondere agli ascoltatori di prima? Sì, la prima considerazione che vorrei fare è che non vorrei confrontare la qualità con i ore di lavoro, perché potrei dire allora che il mio amico tassista che fa 150.000 chilometri all'anno dovrebbe guadagnare molto di più di quel signore che ha chiamato prima, ma mi sembrerebbe una cattiva. Quindi sul fatto che si lavori e si lavori tanto, io non ho nulla da dire. No, no, ma questo infatti non è in discussione. No, ma siccome si è detto che le 16 ore che lavoro io non valgono le 10 ore che lavoro col signore, lo trovo. No, ma su quello ho già risposto, se a lei è sufficiente la mia risposta. La seconda cosa, che forse io non sono riuscito a spiegarmi bene, cerco di spiegarmi meglio perché l'argomento tocca un nervo sensibile. Di questi signori, chi di loro si paga personalmente la camera di albergo quando è in trasferta? Credo nessuno, perché quando è in trasferta la camera di albergo la paga l'azienda. Io quando viaggio per le mie attività di tipo istituzionale o politico... Beh, i viaggi sono gratis innanzitutto. La camera... Mi fa finire questo amico? Sì. Non ho parlato di viaggi. Non ho parlato del trasporto, la camera del bello me la pago io. Sul trasporto siamo uguali, perché le 90.000 chilometri che fa quel signore sono un prezzo dell'azienda, giusto? Ma se io in 90.000 chilometri faccio il treno in aereo, va bene, ma se devo usare la mia macchina, pago io. L'albergo lo pago io, il telefonino lo pago io, tutti gli strumenti li pago io. Allora, io dico che il confronto deve essere omogeneo. Tutto qua. No, ma si può fare, naturalmente il confronto si deve fare e si può fare al di là della demagogia. Lei è partito, però mi scusi un attimo. No, Cruciani, perché è importante. Completi. Ci sopravanza. No, completi. E la gente si illude di aver detto una cosa, come dire, che si è sfogata un attimo e ha ottenuto un risultato e non capisce come stanno le cose in Italia. Dopodiché io tutto questo è su 12 mensilità, tutti questi signori sono 14 mensilità e quindi dovremmo guardarlo su base annua. Alla fine le torna che la retribuzione netta è uguale? A me mi torna che la retribuzione netta dai costi della produzione del lavoro, perché uno che deve fare un'economia, che deve fare un ragionamento economico, deve considerarmi come una piccola impresa. Sì, chiaro, secondo me torna sugli altissimi dirigenti, non come lei ha detto all'inizio su un quadro medio, diciamo, sugli altissimi dirigenti torna, non su un quadro. Altissimi, sugli alti. Comunque. Al di là di questo, sa che cosa ha dato fastidio a molti? Allora, no, cerco di interpretare un po' gli ascoltatori. No, scusi un attimo, Stracquadani. I costi dalla retribuzione sì. E va benissimo. No, però mi scusi un attimo, Stracquadani, io voglio interpretare per chiudere poi, perché siamo andati su un terreno, per carità, interessante, abbiamo ricevuto tante telefonate, va benissimo. Il punto è questo, quello che ha fatto scattare molti ascoltatori tra i messaggi, sms, le telefonate, eccetera, è quando lei all'inizio ha detto, stavamo parlando della sua proposta, che poi in realtà non è una proposta, ma è la risposta ad una domanda di Klaus Davi, bisognerebbe dare di più a chi lo merita anche in Parlamento rispetto allo stipendio, lasciamo perdere questa proposta. A un certo punto lei ha detto, perché guardi, rispetto ad un medio quadro italiano d'azienda, poi non è che noi guadagniamo molto, se uno lavora tanto lo stipendio è insomma normale. Ecco, sul fatto che lo stipendio sia normale, quello di un deputato rispetto a quello di un quadro medio di azienda, io mi permetto di dissentire, lo dico sinceramente la verità, cioè mi permetto di dissentire non perché uno non possa spendere tanto, uno può spendere tanto, ma insomma spende non solo per lavorare, anche per vivere, per campare. Lei dice 500 euro per la donna di servizio, beh certo, 500 euro per la donna di servizio, sì, ho capito, anche in più a quello che spenderei, che spendo per la mia casa di abitazione. È chiaro o no? Sì, sì, ho capito. Se andassi in albergo, chi lo pagherebbe? L'azienda, giusto? Ma non è detto, sono scelte, ma per gli altissimi dirigenti questo qua può succedere, non per il 99,9% delle persone. No, per chi viene, scusi, io non ho mai visto un quadro che va fuori in trasferta e che si paga l'albergo. Ma lei non va in trasferta, è deputato al Parlamento, è una cosa un po' diversa dalla trasferta di un quadro aziendale. Ma io le sto parlando del fatto che il mio impegno di deputato mi porta in giro per tutta Italia per rispondere a situazioni in cui vengo chiamato dai cittadini e quindi posso... Va bene, allora, io capisco che il suggerimento che mi viene è quello di fare come fanno i miei colleghi che non ci vengono mai. Dove? In Parlamento. che non ne parlano, che si intascano i loro quattrini in silenzio. E ai nostri ascoltatori questo. No, ma lei, io non sto dicendo che lei fa male a parlarne, lei fa bene a parlarne. Ridurrò il mio lavoro, sì. Mi occuperò meno della cosa pubblica e aumenterò in questo modo, come dire, la cosa. Però io ho cercato di introdurre un problema che è la meritocrazia. È difficile valutare la meritocrazia per dare dei soldi in più ai parlamentari. Primo perché gli stipendi mi sembrano adeguati, secondo perché non si capisce chi dovrebbe... No, chi... che tante volte non sono adeguati affatto, perché chi lavora niente vi briglia lo stesso. Beh, quello è un altro discorso, certo. Non è un altro discorso, è lo stesso. No, quello è un altro discorso. Perché no, perché non c'è la meritocrazia. E gli stipendi perché come... quando siamo tutti uguali... Sì. Chi non fa un cazzo, scusi l'espressione, sì, e chi fa tantissimo, non è meritocrazia. Allora introduciamo questo principio: se uno ha il 70% di assenze, se uno fa il 70% di assenze, perché l'unica cosa è quella, perché la meritocrazia è... Ma le assenze, dove le misura Cruciani? Le assenze sulle votazioni, sulle commissioni. Anche in commissione, certo, anche in commissione. Lo sa che noi sulle presenze e votazioni in commissione non misuriamo niente? Male. Quindi andare, certo, è questo il problema che voglio sollevare. No, ma questo va benissimo, questo va bene, ma non dando soldi in più, dando soldi in meno, togliendo soldi, non dandoli in più. Scusi, se io avessi detto togliamo i soldi ai parlamentari, lei mi avrebbe intervistato. Come no, certo, togliamo i soldi, togliamo i soldi. No, assolutamente no, al contrario. Togliamo i soldi a chi fa assenze in commissione rispetto allo stipendio. L'avrei intervistata subito, come l'ho intervistata? È la stessa cosa. Beh, insomma, non è proprio lo stesso. No, perché così abbiamo suscitato lo scandalo e se ne parla. Detta nell'altro modo, è talmente banale che non veniva raccolta da nessuno. Beh, non lo so. Comunque. Lei comunque, conosce meglio di me. Lei vuole cambiare la proposta? Lei toglierebbe i soldi dalla... No, io non voglio cambiare la riproposta. Io non ho fatto una proposta. Vabbè, lasciamo, che non è una proposta, d'accordo. Non c'è la proposta, è una cosa che uno non scrive. Non c'è, d'accordo, ha ragione. Va bene, non c'è la proposta. Non c'è nessuna proposta. Non c'è nessuna proposta. È una parola sbagliata. Io dico che ci deve essere un criterio che possa offrire un vaglio meritocratico legato anche alla retribuzione, oltre che una trasparenza verso i cittadini tra chi lavora, si impegna, ho si va a fare, opera. Però senza aumenti, va bene? Senza aumenti, perché siamo d'accordo? No, io non ho detto né aumento né diminuzione, aumento era un modo per dire l'aumento che l'ha detto, una scala di valori. Sì, sì. Non può essere la stessa cosa, fare e non fare, non può essere trattato nello stesso modo. Sono d'accordo con lei, però senza aumenti, diciamo, di stipendio, ma togliendo magari qualcosa agli altri. Ma facciamo questo di là la caprina? No. Questo di là la caprina. Ho cominciato a dirle che gran parte di quello che incassiamo è speso per svolgere la produzione del lavoro e quindi è costo di produzione. Il valore aggiunto, che è quello che lei chiama stipendio, no? Sono quei 4-5 mila euro. Conosce un avvocato che guadagni 4-5 mila euro al mese netti? No, infatti ci sono avvocati in Parlamento che guadagnano sia da... perde, non mi faccio la polemica. Conosce, conosce medici che guadagnano... Ma sì, che ne conosco, li conosco. All'inizio, i liberi professionisti, chi fa l'extramenia, chi prende 150 euro per una visita e meritatamente guadagna di più, non crede? Però insomma, secondo me... Certo, ma secondo me però i paragoni... E poi paga le tasse, giustamente. E io chiedo soltanto, io cerco di non fare demagogia sullo stipendio dei parlamentari. E di focalizzare l'attenzione sul fatto che una classe dirigente politica dovrebbe avere anche un incentivo economico onesto e non un incentivo economico disonesto. Che se no dopo si può determinare. Va bene, grazie. Ascoltatori, dopo Stracquadanio, Tommaso da Milano. Ah, buonasera, io ho sentito le ultime considerazioni di Straguadagno e non mi ha convinto. Com'è che ha detto Straguadagno? Straguadagno? Sì, infatti, nome nomen, no? Dicevano i latini. Sì, no? In realtà si chiama Straguadagno, dire... però lei dice adesso lo voglio ribattezzare Straguadagno. Straguadagno, nome nomen, no? E dovrebbe, secondo il mio modesto parere, vergognarsi di quello che dice, perché è appena uscita una statistica che dice che appunto gli stipendi italiani sono il 16,5% inferiore agli altri stipendi a livello europeo. Io ho fatto il direttore di alto livello in una grande multinazionale e posso assicurare al signore che si lavora sicuramente in un altro modo e se si vuol parlare a livello di management vorrei capire anche quando parla di discorso di meritocrazia chi fissa i punti. Io ricordo che avevo per la mia divisione e a livello personale degli obiettivi da raggiungere. Quali sono i suoi obiettivi? Solamente quelli di alzare la manina o fare il pianista su un discorso di una legge elettorale che sappiamo benissimo non per merito suo, ma perché decide qualcun altro chi e non chi deve andare in Parlamento. Io dico solamente il nome appropriato del signor Straguadagno sarebbe senza vergogna. Va bene, vergogna. Tommaso, grazie. Antonio da Padova, buonasera. Buonasera Antonio. Sì, buonasera, complimenti alla trasmissione, anche se a volte è un po' troppo arrogante, però non mi fa altro che spegnere la radio e non le auguro certo di morire, questo no, mai. Meno male. No, riferendomi a tutto quello che ho sentito l'altro di sé. Comunque mi permetto un piccolo sfogo, in quanto volevo essere la massima solidarietà verso il ministro, poverino, perché... No, non è ministro Straguadagno, è l'onorevole, deputato. Va bene, perché mi faceva male il cuore sentire queste cose. E se è possibile che mi dia un numero di conto corrente per evolvere il 5 per 1000 per se ha qualche altro vizio che non riesce a sostenere con i 4.000 euro che gli restano, ecco, perché non può io sono una voce fuori del coro, perché sono un autista, non sono né un quadro né neanche un dirigente d'azienda, niente altro, un semplice operaio, e non può mettere in piazza le sue spese che le vuole lui, perché chi le ha detto di andare su un appartamento di 1.500 euro al mese? Come fa a mettere su carta tutte voci così che sono solo a suo... No, lei dice sono quelle di Straguadagno, non sono quelle di altri deputati. La ringrazio, grazie Antonio. Nicola da Verona, buonasera. Buonasera, dottor Bruciani. Dica. Niente, io voglio ringraziare il signor Straguadagno. Le voglio ringraziare perché è la dimostrazione del totale scollamento della politica dalla vita produttiva e sociale di questo paese. Io per lavoro faccio il tecnico, no? Nell'ambito informatico, e giro le aziende nel Triveneto. Sì. E quello che vedo nelle zone industriali di Padova, di Verona, di Vicenza, girando e cercando i clienti presso i quali mi reco, sono i picchetti dei lavoratori al di fuori delle aziende, no? Sì, però adesso mi scusi un attimo, ecco, con i picchetti allora, dei lavoratori, il discorso di Straguadagno non c'entra nulla. No, certo, non facciamo demagogia, però facilissima, gli operai che sono disoccupati, i picchetti, certo. Il lavoro che manca, allora, non invito, c'entra niente. Io invito il signor Straguadagno a prendere l'auto e girare e confrontarsi con il paese, ha capito? Perché qui siamo alla demagogia totale. Totale. Sì, però secondo me in questo caso siamo alla demagogia da una parte e dall'altra, perché mi scusi, se lei vuole paragonare la situazione di Straguadagno con quella degli operai disoccupati, questo è evidente che c'è una sproporzione. Certo. Lei mi dirà lamentarsi tra virgolette dello stipendio dei parlamentari in questa situazione non è troppo elegante, e su questo le do ragione, ma in realtà poi Straguadagno, o Straguadagno come dice lei, non si è lamentato, ha semplicemente voluto fare un paragone, che è quello con un quadro medio di aziende. Io gli ho risposto, non è con i quadri medi di aziende che si può fare il paragone, perché guadagnano molto meno di lei. Lui dice di no. Beh, insomma, sentiamo per esempio Cristian dalla provincia di Ancona. Buonasera. Dica. Senta, io volevo dire solamente questo. Io sono titolare di un'azienda familiare, diciamo adesso, senza entrare nel dettaglio del stipendio, io prendo circa 2.000 euro lordi. Beh, l'azienda familiare però non fa testo, rispetto a quello che diceva Straguadagno. Infatti non volevo andare su questo punto, volevo andare su un punto diverso praticamente. Io non contesto in nessuna maniera e modo lo stipendio di qualsiasi tipo di parlamentare. Volevo fare solo un paragone, visto che è stato tirato indentro l'azienda privata, cioè che nell'azienda privata se c'è una difficoltà o c'è, diciamo, una persona che non lavora, questa ne paga la conseguenza sulla pelle direttamente, sia il titolare che il dipendente. Cioè, sì. Se l'azienda fallisce, il titolare rimette, e se il dipendente, diciamo, se l'azienda ugualmente non guadagna, il dipendente non è produttivo, lo licenzia. Nella politica non vanno di pari passo, cioè nel senso, se qualcosa non si realizza o, diciamo, addirittura si creano, come in questi ultimi tempi si vedono, queste situazioni sia economiche e politiche, diciamo, negative per colpa di chi ci governa, questi prendono tra lo stipendio, se lo mantengono sempre, in più tra pensioni e indennità, cioè nel tempo percepiscono sempre un qualcosa che, cioè, nell'ambito privato è assurdo. No, ma guardi Cristian, lo stipendio, la pensione è uno scandalo. Sul fatto che diciamo in un'azienda un dirigente può essere mandato via e invece i politici no, su questo no, non è così, lasciamo perdere la legge elettorale come è fatta, ma in teoria un politico, diciamo, dura in carica 4 anni e poi deve essere rieletto, per cui potrebbe anche durare meno di un dirigente volendo. Grazie, grazie. Fortarrigo, Perugia. Buonasera. Buonasera, dica. Fortarrigo, che nome strano. Ah, ma anche chi lo porta, eh. Fortarrigo, beh, Arrigo sì, Fortarrigo, lei è una rarità assoluta. Di origine longobarda, a quanto pare. A quanto pare, ma come la chiamano, Arrigo o Fortarrigo? O forte. Ma di solito forte Arrigo, forte, ci sono forte, varianti di tutti i tipi. Mi dica. Senta, io volevo intervenire su Don, chiamarlo Don, tra l'altro lo ritengo del tutto erroneo, De Capitani. Ho sentito la sua presentazione, secondo me non è né un prete né un religioso. Io lo conosco, seguo il suo blog perché voglio vedere a che punto di follia arriva. Ho letto un post una volta sul suo blog in cui offendeva il vescovo, in cui offendeva il papa, i cardinali. È una cosa veramente, secondo me, fuori dal mondo. Non credo che sia possibile tollerare gente che con lo scudo dell'abito talare possa permettersi di dire certe cose. Dunque, secondo lei dovrebbe essere buttato via dalla Chiesa? Beh, per me... escluso, che ne so, come si dice, dimissionato, bisogna... togliergli l'abito sacerdotale, cose di questo secondo tipo. Secondo me dovrebbe essere lui a toglierlo, perché lui non è un prete. Senta cosa me. Va dicendo in questi giorni. Berlusconi, Boss e Company, siete già maledetti dalla vostra malvagità, dalla vostra demenza, e siate maledetti, figli di un'orgia demoniaca. Fate schifo, letteralmente schifo, come anche coloro che vi sostengono. Ciechi e ottusi che prendono per prato verde una distesa di sabbia infuocata dal sole della imminente vendetta umana. Beh, questo era spettacolare, no, Fortarrigo, cioè io la prendo come una cosa di una comicità incredibile, o no? Beh, se mi consente, probabilmente stava davanti allo specchio quando ha detto queste cose, si stava guardando. Lei dice, cioè... eh? Da fedele. No, ho capito benissimo. La ringrazio molto per questo intervento. Fortarrigo da Perugia ci ha chiamato, è un nome che mi rimarrà impresso a lungo. Fabio da Venezia, buonasera. Sì, buonasera a lei, dottor Bruzzani. Allora, niente, io in quanto intensità e importanza delle ore lavorate, non tanto delle quante ore lavorate, ma l'intensità intellettuale impiegata, che diceva prima il signor Straguadagno, pensavo che allora dovrebbero farsi pagare da Berlusconi e dalla nomenclatura del PD come bravura, più che... In che senso, mi scusi? Nel senso che quando si trattava di fare le leggi e di dare l'impunità, di tutelare... No, scusi, però questo non c'entra niente, l'impunità, le leggi, non mi vada su un altro discorso. Di che vuole parlare? Dell'intervento di Straguadagno? Su cosa si vuole concentrare? Lasci perdere l'oggetto delle discussioni parlamentari. Allora sì, allora guadagnano, per me guadagnano molto, per me guadagnano troppo in base al risultato prodotto in questi ultimi anni. Benissimo, la ringrazio. Ci siamo? Sì, siamo qui alle 20 in punto, TG5. Va bene, sentiamo i titoli del TG5. Napolitano ricorda lo sbarco dei 1000 a Marsala, l'Italia dice crescerà di più e meglio solo se unita. Il Papa in Portogallo torna a condannare i preti pedofili, un fatto terrificante, in 200.000 alla messa. Mogli e madri massacrate da mariti accecati dalla gelosia, da Gela a Torino una catena di omicidi. Individuati i poliziotti del pestaggio di Stefano Gugliotta, decisivi i video, ma il ragazzo è ancora in carcere. La nube del vulcano islandese sull'Italia, ma per ora non è previsto nessuno stop ai voli. Reportage del TG5 dalla città mercato cinese più grande del mondo. Si produce e si trova di tutto in 24 ore. Aumentano le spiagge italiane da bandiera blu, guida la classifica la Liguria, seguita da Toscana e Marche. Fiction, reality, film, ma non solo, nasce la 5, nuova rete gratuita del digitale terrestre Mediaset dedicata al pubblico femminile. E va bene, TG1. Napolitano, penosi commenti liquidatori sull'Unità d'Italia. Il paese cresce solo se unito, secessione e salto nel buio. Nel torinese 50 coltellate alla moglie, a Gela uccisa davanti alla figlia, delitti in famiglia, Italia prima in Europa. Benedetto XVI in Portogallo, profezia di Fatima riguarda sofferenze della Chiesa e scandalo pedofilia tra i sacerdoti. La nube del vulcano islandese, allarme ceneri sul Mediterraneo, per ora nessuno stoppa i voli negli aeroporti italiani. Gran Bretagna verso accordo liberal-democratici e conservatori, imminenti le dimissioni di Brown, cambio a Downing Street. Domani al via il Festival di Cannes, apre Robin Hood con Russell Crowe, le star si preparano per la passerella. Bene, Giovanni da Livorno, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, salve. Dica. Senta, io inizialmente volevo fare un breve parallelismo col mio lavoro, ma poi ascoltando la trasmissione ho capito che probabilmente c'entra poco, in quanto io faccio il camionista. Però vorrei fare un parallelismo invece col lavoro di mia madre, che è un'impiegata in tribunale, normalissima, e nel momento stesso in cui ha vinto il concorso partendo da Salerno si è dovuta trasferire a Livorno, la mia attuale città. E cosa voglio dire con questo? Che se il signor guadagna troppo, come l'ha già stato definito, e si vuole tenere la sua casetta milanese perché ha il suo giro di denaro piuttosto che altri facili guadagni percepiti, non riguarda il cittadino italiano, non so se mi spiego. Cioè, se si vuole permettere il lusso di spendere 1500 euro e si può permettere il lusso di spendere 1500 euro di affitto mensile per una casa della quale probabilmente usufruisce poco, non credo che riguardi propriamente il cittadino italiano, che oltretutto gli paga, diciamo, lui ha parlato solo di diaria di 5.000 euro al mese, ok, perfetto, ma ne prende 15.000 al mese. Cioè, ragazzi, qui siamo ai pazzi, dottor Cruciani, io non so se conviene con me, ma siamo ai pazzi. Io faccio il camionista e come indennità di trasferta, considerando le notti fuori che purtroppo passo come un cane in una cuccetta, ho 38 euro e sono a mio carico le spese per il cibo piuttosto che tutto quello di cui uno ha bisogno. Giovanni, io lo capisco benissimo, per carità, non voglio scendere nei particolari di quello che lei percepisce come indennità per le notti eccetera eccetera, però oggettivamente Stracquadano non voleva fare un paragone tra quello che lui percepisce come rimborsi eccetera e quello che lei prende come rimborsi, certo, Giovanni. No, chiaramente, infatti, come le ho detto, mi sono reso conto che sarei andato un attimo fuori argomento. Ho cercato un parallelismo un po' più vicino. Cioè, nel momento stesso in cui queste persone vengono elette, nessuno, badi bene, dottore, gli chiede di rimanere, di tenere tre case piuttosto che cinque. Su questo non c'è dubbio. È tutto lì il discorso. Quindi, se lui ha la sua principale attività di parlamentare a Roma, che si trasferisca, come fa chiunque. Che affitti la casa sua a Milano. Esatto, una casa sola. Non è che può pretendere che gli passi anche le sigarette piuttosto che lasciamo stare i discorsi stupidi come le escort o le No, ma questa è una stupidaggine, l'escort però non c'entra niente. Esatto. Rimanendo alle camere d'albergo. Concreto, esatto, le camere d'albergo. Sì, si deve trasferire a Roma, cambiare abitazione, ma quanta gente lo fa per 1.200-1.500 euro al mese e sono dipendenti statali comunque? E qui siamo a pazzi, dottor Cruciani. Va bene, Giovanni, grazie. Antonio, provincia di Foggia, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Io non voglio essere né banale né qualunquista. La chiamo perché mi sono sentito chiamato in causa in quanto sono un quadro aziendale, che è la figura che l'onorevole ha chiamato in causa. Ho sentito gli interventi precedenti e parlavano di dirigenti, per cui diciamo un profilo economico sicuramente superiore al quadro aziendale. Senza entrare nei particolari di quella che può essere la retribuzione, che è sicuramente molto inferiore a quella percepita dall'onorevole. Quello che lei dice spesso è dell'errore in cui i parlamentari, gli onorevoli politici cadono in genere, è proprio il distacco dalla realtà. In questo caso l'onorevole ha dimostrato chiaramente di non essere a conoscenza di quella che è la realtà di chi fa il lavoro aziendale, ma di chi fa l'operaio, di chi fa il dirigente, e ha pensato, diciamo, bene di paragonare, diciamo, il suo introito, la sua retribuzione a quella, diciamo, di un profilo che, come tutti sappiamo, guadagna molto meno. Ma la cosa che a me lascia perplesso, sì, è la incapacità di, diciamo, la mancata consapevolezza del privilegio. Per quanto mi riguarda, il privilegio è una cosa importante. Però mi scusi, Antonio, io su questo però dissento, perché uno può anche intendere la propria professione, in questo caso il parlamentare, non come un privilegio, ma come una missione, come un servizio per il paese. Ripeto, il paragone va fatto con gli alti dirigenti di un'azienda, non con i quadri intermedi. Questo è l'errore capitale, secondo me, dell'intervento di Straguadagni, o no? Non la percepisce nemmeno il nostro amministratore delegato, ma le dico di più, io con i miei miseri 2.400 euro al mese mi sento un privilegiato, e questa consapevolezza di sentirmi privilegiato mi dà la forza di non lamentarmi tutti i giorni. Se l'onorevole si capisse effettivamente che in questo momento storico, perché effettivamente... Però non si è lamentato, non era una questione di lamentele, voglio fare la difesa di Straguadagni, però non si stava lamentando dicendo insomma guadagniamo troppo poco, stava affrontando un discorso sulla retribuzione dei parlamentari, non in maniera demagogica, ma dicendo guardate che insomma è uno stipendio che poi va calcolato al netto delle spese, eccetera eccetera. C'è molto da ridire sull'intervento di Straguadagni, ma non voleva lamentarsi. No, però mi permetta, forse l'ha un po' banalizzata, ecco perché forse ha scatenato un po' le ire di tutte le persone che come me rivestono quel ruolo. Non c'è dubbio, su forse questo l'ha banalizzata. Non c'è dubbio, Straguadagni è un'offesa per il cittadino, continuano gli ascoltatori a mandare sms di questo tipo. Abbiamo una pubblicità tra poco, però volevo sentire prima Claudio da Roma. Sì, buonasera. Io guardi, non posso che aggiungermi al coro e umilmente dalle mie 1.450 euro mensili nette, sono un dipendente di Finmeccanica, laureato, lavoro in Finmeccanica da 20 anni, sì. Potrei suggerire comunque a Straguadagni, come si pronuncia di preciso non lo so, visto che comunque lui afferma che non si è lamentato, però diciamo che tutti noi quando parliamo di stipendio e facciamo notare che prendiamo una certa somma, alla fin fine sotto sotto diciamo in un certo senso ci lamentiamo. Lei dice che sotto sotto si è lamentato, quindi diciamo che ammesso e non concesso che si lamenti, e dato appunto che ci sono state recentemente anche le ultime statistiche OCSE che dicono che appunto gli italiani sono al 23° posto come media europea, io a Straguadagni gli proporrei di fare appunto, visto il mio umile stipendio e proporzionato al suo tenore di vita, perché io comunque pago 400 euro al mese di stipendio ed ho preso il variabile, quindi tra l'altro 400 euro al mese non mi, di affitto? Di mutuo sì. Ed ho preso il variabile, quindi diciamo mi reputo anche fortunato, una allora? Scelta azzeccata. Direi appunto di proporre una proporzione, diciamo di darsi da fare di più appunto per i lavoratori, di fare appunto qualcosa, una legge, non so, per far sì che il mio comunque umile e mi accontento stipendio, perché comunque bisogna parlare sempre, stipendio? Sempre nei contesti in cui si vive, no? C'è stata la recessione dal dopoguerra, direi appunto di far sì che ai Straguadagni magari si facesse portavoce di far alzare magari gli stipendi agli italiani. Tutto. Ho capito, pubblicità. Disgraziato come me. Io incasso dalla Camera dei Deputati 15.000 euro al mese. Di questi 5.000 sono la vera e propria indennità, circa 5.000 sono il rimborso delle spese per la permanenza a Roma e per altre spese, e 5.000 sono per lo svolgimento dell'attività politica. Dal totale lordo che noi riceviamo, detratte tutte le spese che sono a nostro carico, se uno lavora seriamente, non è che prenda questa, cioè guadagna, voglio dire, come un caporedattore, al massimo, parlando di giornalismo, o come un quadro di buon livello, non è, però ha una responsabilità molto più alta. Lei si è sempre rifiutata la demagogia che dovete essere pagati di meno. Sì, assolutamente. Perché? Perché dice ai giovani no, noi guadagniamo... Perché dobbiamo mettere un incentivo ai migliori a competere per il Parlamento, per la guida della nazione, scusi, Le aziende cosa mettono come incentivo per prendere i migliori dirigenti? Anche un fatto economico. Voglio la gara della meritocrazia. Anche per i parlamentari pagherebbe addirittura di più di quello che guadagnano quelli che lavorano. Sì, sì. Bene, questo era Giorgio Stracquadanio, intervenuto alla Zanzara questa sera, e ha suscitato un bel spaio la musica, naturalmente, Renato Zero. Ma poi, con troppi soldi, cosa ci fai? Se con chi spenderli non sai. Poveri in Italia, ma felici noi. Soldi. Eccoci, Gianmario da Padova, buonasera, intanto mi confermano, sempre se poi mantiene gli impegni, che ci sarà Emilio Fede a rispondere sulla vicenda Saviano alle 20.30. Gianmario, prego. Buonasera Cruciani, grazie mille per l'opportunità. Io le sembrerò un po' fuori dal coro perché esprimo la mia solidarietà a Stracquadanio. Addirittura solidarietà, ma sì. Non ha bisogno di solidarietà. Lei no. Dice rispetto agli attacchi degli ascoltatori? Ma sì, più che gli attacchi sono un po', diciamo, dispiaciuto e sorpreso dal qualunquismo diffuso. Se essere un parlamentare è diventato essere un pianista, stare a scaldare i banchi, andare a spese dei contribuenti fuori, mi sembra che stiamo svuotando completamente di significato uno dei ruoli più importanti della nostra società civile. Io, più che focalizzarmi su se prendono poco o prendono di più, io sarei più esigente dal punto di vista delle performance. Cioè, ci sono i risultati, paghiamoli anche di più, ma esigiamo risultati maggiori. Noi potremmo avere... Sì, Gianmario, questo va bene. Stasera Stracquadanio ha detto un'altra cosa. Ha detto che lo stipendio che prende un parlamentare è alla fine come quello di un piccolo, no, piccolo no, cioè di un medio quadro aziendale, cosa che ha fatto. Ma questo l'ha detto lei, è stato chiarissimo. Questo è assolutamente non corrispondente alla realtà, perché ci mancherebbe altro. Se quadri prende, e poi ha messo dentro delle spese che insomma sono solo sue, non è che siano normali per un cittadino italiano le spese che ha elencato. Io non entro nel merito di questo, sono un dirigente aziendale, quindi veramente. Gianmario, però il traffico, fuori. Resti con me. Senza problemi vivrei, soddisfare qualunque voglia, questo è ciò che vorrei. Alternativa non c'è, chi è che è disgraziato come me, chi è più sfortunato, chi più miserabile di così. Gianmario da Padova, prego. Sì, dicevo, bisogna pretendere di più, ci si scandalizzerebbe se un parlamentare che fa il suo lavoro nel migliore dei modi, che garantisce il welfare. No, certo. Perché ci si dovrebbe scandalizzare? No, ma infatti io non mi scandalizzo. Innanzitutto queste persone, piuttosto, perché non si dice che la maggior parte dei parlamentari, quello che guadagnano come diaria è semplicemente una piccolissima parte di quello che guadagnano con i loro lavori, che non hanno nulla a che vedere. Scusi un attimo, intanto Brown, per passare ad un argomento che riguarda la Gran Bretagna, ma è comunque molto importante, sapete che c'è stato in questi giorni il tormentone sul governo inglese. Brown sta annunciando in questo istante le dimissioni da primo ministro di fronte a Downing Street. In primis ovviamente la crisi globale. Lì in Gran Bretagna, faccio una piccola considerazione, anche in situazioni complicate come questa, alla fine quando è che si è votato? Giovedì scorso, non è che poi, no, non è che fanno passare mesi di trattative, eccetera. Le trattative ci sono, perché comunque ci sono, ma poi durano 3-4 giorni, ci si mette d'accordo su un programma chiaro, su alcuni punti e via. Gianmario, questa è serietà, Sì, devo dire la verità, Cruciani, che poi anche su questo siamo bravi a sparare sull'Italia. Tenga presente che in Inghilterra non hanno avuto il diritto di votare, questo lei lo sa. Sono rimaste persone fuori dai seggi con la scheda in mano che sono state cacciate via. Vabbè, questo è un altro discorso, Gianmario, che c'entra adesso? Se fosse successo in Italia, Cruciani, sarebbe ancora pieno i giornali. Quindi io sono d'accordo con lei, in Inghilterra sono più pragmatici, io lavoro con gli anglosassoni tutti i giorni e sono molto più disciplinati. Ma insomma, in una situazione complicata come Long Parliament, il Parlamento bloccato, alla fine in 3-4 giorni hanno fatto un governo. Sono d'accordo con lei. Però cioè, Brown se ne va, in Italia avrebbero fatto un casino, prima di andarsene qualcuno si sarebbe barricato da Downing Street pur di non andarsene. Assolutamente sì. Comunque io la ringrazio. Kinch. Ancora Renato Zero. La vita è una lotteria, fortuna non andar via. Vieni a sederti un po' qua, amica mia, felicità. Soldi da parlamentare, addirittura da Downing Street escono i due figli della della coppia Brown, ripeto, Brown che ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro, aprendo la strada a un governo di coalizione tra conservatori e Lib Dem. Antonio Dall'Aquila, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani, e a tutti i radioascoltatori. Senta, io chiamo perché volevo segnalare che ci sono, c'è una categoria di persone che io ritengo del tutto assimilabile a quella dei parlamentari. È una scena meravigliosa, perché mi scusi un attimo, ma me la sto gustando qui su Sky in diretta, perché fuori da Downing Street, se non sbaglio, Downing Street, non vorrei che fosse l'abitazione di Gordon Brown, ma non credo. Insomma, Gordon Brown si è dimesso, poi a un certo punto era accanto alla moglie, colui c'era accanto alla moglie, a un certo punto sono usciti due bambini dall'abitazione, credo, ripeto, Downing Street, se non sbaglio, e insomma con i due bambini sono andati via, materialmente sono andati via. Sono scene che noi ci sogniamo in quanto, come dire, a compostezza istituzionale, anche celerità nel formare un governo. Comunque, Antonio, non voglio essere eccessivamente catastrofista, non lo sono mai nei confronti, però quando vedo queste cose... Assolutamente. Dunque, senta, io volevo semplicemente parlare della categoria degli insegnanti. Per esperienza familiare, io ho mia moglie che è insegnante, e come lei certamente saprà, oramai gli insegnanti, per poter lavorare, siano essi precari o di ruolo, comunque sia, sono costretti ad andare fuori provincia, fuori della provincia in cui normalmente risiedono. Cominciano naturalmente quando sono insegnanti precari per poter cominciare a lavorare, e quando poi diventano di ruolo si trovano ovviamente in una provincia diversa da quella di residenza. Questa è la situazione che noi viviamo in famiglia, perché appunto, le dicevo, mia moglie è costretta a percorrere 100 km ad andare e 100 a tornare per poter effettuare il suo lavoro da insegnante. Naturalmente poi il lavoro, nonostante quello che si dica, anche qui ci sono dei luoghi comuni, come per quello che riguarda i parlamentari, non finisce nel momento in cui si torna a casa, perché poi naturalmente ci sono i compiti da correggere, ci sono le lezioni da preparare. Dunque, tutto questo viene fatto per 1.300-1.400 euro al mese. Va bene, insomma, possiamo discutere anche lungamente del fatto che gli stipendi degli insegnanti in Italia non sono adeguati rispetto a quelli di altri paesi, e su questo sono d'accordo, però non si può fare un paragone con i parlamentari, con lo stipendio di straguadagno. Io, siccome lo sono straguadagno, ha parlato di qualità del lavoro, mi permetto di dire che il lavoro degli insegnanti, che devono formare quelle che poi saranno anche le future classi dirigenti del paese, sia un lavoro, secondo me, del tutto assimilabile a quello di un parlamentare, e come tale è chiaro che meriterebbe maggiore considerazione. Però non per questo mi sembra che ci siano stati insegnanti che abbiano lamentato di guadagnare troppo poco, nonostante... Beh, insomma, le lamentele ci sono, anche giuste, non è che non si lamentano gli insegnanti. No, da questo punto di vista. No, certo. Grazie, Antonio. Intanto Gordon Brown si è dimesso davanti a Downing Street e sta andando dalla regina, così funziona in Inghilterra. Gerardo da Roma. Buonasera dottor Cruciani. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo fare alcuni punti molto sintetici, perché capisco che devono intervenire anche gli altri. È condivisibile che tutti noi cittadini onorevoli si faccia qualcosa in modo tale che tutti siano presenti in aula. Questo qui è chiaro, non c'è problema. Innanzitutto poi gli onorevoli non è che, diciamo, li forziamo a diventare onorevoli. Sono loro che con il loro lavoro acquisiscono quella posizione. L'onorevole non ha parlato di privilegi non citati che loro hanno, pensioni e quant'altro. Poi, diciamo, la cosa più importante, a me adesso al conto della spesa tra i dirigenti aziendali e quant'altro, è un altro. È assurdo sentire dalle parole, mi sembra, che ci siano sistematicamente 60-70 persone che non presenziano in aula perché hanno un lavoro che è talmente così remunerato che non gli conviene nemmeno andare in Parlamento. Questa qui è la cosa più forse topica, insomma, di questa conversazione che io ho sentito. Sì, anche questa forse l'abbiamo trascurata. Lui ha detto ci sono 70-80 persone che sistematicamente non vengono in Parlamento. Dottor Cruciani, io vorrei fare questo punto, perché quando ci sono le elezioni loro vanno a cercare queste persone perché portano i voti. Ma però poi non c'è manco bisogno dei voti, in realtà, comunque. Sì, ma li portano perché hanno molte... c'è bisogno, perché non ci sono le preferenze, non ci sono i collegi. No, ma loro vanno a individuare le persone, ovviamente, gli ospedali, i grandi primari che portano... Quindi figure di che calamita... Per il partito, dice lei, sì. Allora... Per il partito, però poi dopo ci lamentiamo che non partecipano. Capito? L'esigenza, cioè, di conquistare, diciamo, delle posizioni di prestigio e posizioni governative, e poi successivamente, però, e poi anche altra cosa, è singolare che ci sia solo una persona che parla di queste tematiche. la tematica del problema dei 15.000 euro. Solo una voce si sente tra 1.200 persone. No, ma non è vero, no. Gerardo, altre persone ne parlano. Da questo punto di vista, Stracquadanio, da questo punto di vista, Stracquadanio è stato anche. Compro molti giornali, non sento questo. Vabbè, non è che ogni giorno si parla lo stipendio dei parlamentari. No, la ringrazio, Gerardo, la ringrazio. Brown, ho invitato Cameron a formare il nuovo governo. Dimissioni immediate da leader Labour. Dunque, Brown si dimette da leader dei laburisti. Questa è la sostanza, oltre che invitare Cameron a formare un nuovo governo. Francesco, provincia di Frosinone. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Niente, io volevo parlare del fatto che è successo a quel povero ragazzo che è stato picchiato dai poliziotti dopo di Roma-Inter, la finale di Coppa Italia. A me non è successa la stessa cosa, per fortuna, ma in una partita dell'88, era Roma-Juventus, io stavo per entrare in curva sud. Sì. E c'era un poliziotto che mi ha intimato di fermarmi e un altro prima di lui che praticamente mi diceva vieni avanti, io non sapevo cosa farmi, cosa fare, alla fine sono rimasto imperdito e il compagno di questo cellerino gli ha detto la prossima volta dagli una manganellata. Sì, però Francesco, mi scusi, adesso per carità va bene tutto, lei ci può raccontare quello che vuole, chiunque può telefonare, esprimere le proprie idee eccetera. Ma noi che ci facciamo col suo racconto di alcune frasi dette da alcuni poliziotti fuori dallo Stato nel 1988? Abbia pazienza, Francesco. Dottor Cruciani, guarda, ci sono parecchie persone esaltate nelle forze armate. Ma ho capito, può essere che sia così, ma non, la prova non è certo il suo racconto del 1988 davanti a uno stadio. Abbia pazienza, Francesco. No, non pagano mai, e speriamo che invece paghino. Cosa vuole che le dica? Ma non è che possiamo prendere appunto di riferimento per la cattiveria dei poliziotti il suo racconto del 1988. No, io ero soltanto per una cosa personale. Ho capito, ma le cose personali vanno anche inquadrate in un contesto. Bene, siamo qui alle 20.34, collegamento, credo che sia nel suo studio, con Emilio Fede, direttore, buonasera. Eccoci, buonasera, sì, infatti sono nel mio studiolo, piccolo studiolo. Come piccolo? Pensa, piccolo, lei non piccolo, ha un ufficio. Piccolo telegiornale, piccolo giornalista, piccolo studio. No, piccolo giornalista perché, che piccolo succede? Piccolo di statura. Ah, sì. Piccolo di statura. No, anche di tutto, dai, andiamo dalle battute. Perché di tutto? No. Tanto siamo di passaggio, guarda. Bisogna non siamo tutti di passaggio, siamo tutti di passaggio. Appunto, siamo di passaggio in questo mondo. Senta, ma io ho fatto il conto. Lei non è vero che se ne è uscito la prima volta dopo le frasi di Berlusconi su Saviano. No, è da tempo che ce l'ha con Saviano. Ma cioè, perché? Non è che perché? La parola non è giusta. Come non è giusta? Io ho fatto delle riflessioni delle quali. Nel quale sono convinto, non è che adesso sono qui per dire no, ma io volevo dire, io in genere quel che dico lo so perfettamente che cosa dico, qualche volta storpio i nomi, ma non per volontà. E perché li storpia? No, non me li ricordo. Qualche volta lo fa apposta, direttore. Ma no, pupazzo, io per esempio il paparazzo lo devo parlare stasera, quello di come si chiama lì, Villa Certosa, non me lo ricordo. Ma comunque al di là di ma quello lo storpia apposta, quel nome lì. No, pupazzo, paparazzo. Pupazzo. Anche Prodi ogni tanto lo storpia, com'è che faceva Prodi? No, non lo storpiava, si storpiava da solo, non era quello, Brodi. No, sarebbe stato anche stupido, no, ma torniamo a cose serie, ma io da un anno almeno, ma perché mi sono chiesto e mi chiedo. No, da più di un anno, ho fatto la prima dichiarazione sua su Saviano nel 2008 addirittura. Quindi 2 anni, appunto. Sì, noi la seguiamo questa sempre. Questa è coerenza, grazie Musa, è coerenza. Questa vicenda ha aperto una polemica inutile. Cioè io ho detto e ribadisco che cioè la mia amarezza nasce. Lei ha detto, mi scusi un attimo, non se ne può più di sentire che Saviano è un eroe. Ora, voglio dire, lei se la dovrebbe prendere con quelli che magari lo fanno diventare eroe, non con Saviano. Infatti, me la prendo con voi altri che ne parlate. Io non ne parlo di Saviano. No, ma lei se la piglia anche con Saviano stesso, è quello che non va bene, secondo me. Io dico, non può diventare il mito, non può diventare l'eroe. Perché? Perché diventando il mito dell'eroe, diventando lui lo Stato, come ha preteso di essere, quando è lì che nasce, faccio una parentesi, un anno fa, credo, processo d'appello a Napoli per il grande Casalesi, conferma l'ergastolo per tutti i fiati al grande Casalesi, che leggo nella cronaca che rappresenta anche lui in aula. Mi sono chiesto, ma cos'era? Testimone? No, non era niente. Vabbè, uno può essere presente, sono qua per testimoniare che lo Stato c'è. per la miseriaccia ladra. È come se io vado, non so dove, dico sono qua per testimoniare che la Presidente della Repubblica... Ma io non penso, scusi un attimo, direttore, io non penso che Saviano volesse dire l'unico rappresentante dello Stato, qui sono io, gli altri fanno tutti schifo. Insiste, non voleva dire questo. Insiste, lui dice che lo Stato ci deve essere, lo Stato non deve essere latitante. Ma che cazzo, ma dove è latitante? Ma è latitante Borsellino che ci ha rimesso la vita, è latitante Falcone che ci ha rimesso la vita. Cioè, sono latitanti quei magistrati che si sono spaccati l'anima e hanno pagato con la vita. Ma questi vanno giustamente esaltati, però non è che Saviano li denigra, questi qua, non è che Saviano se la prende con questi. No, sto dicendo un'altra cosa, sono quelli gli eroi, anche loro non ci sono più, non possono, ma io ho ricevuto una telefonata del figlio di Gio Marrazzo, che era un mio collega, che è il padre di Marrazzo, no? Il papà di Piero Marrazzo, sì. Che è stato un giornalista importante, sì, come no. Le grandi inchieste, gli hanno bruciato la macchina, tirato le bombe contro la casa, spaccato i vetri, gli hanno fatto di tutto, non aveva manco una scortina, non c'aveva niente, girava così. Cioè, voglio dire, mai ha preteso, nessuno mai si è occupato di Marrazzo. Io ho citato poco tempo fa, ho fatto un servizio per un settimanale Password su quella giornalista di un giornale di Caserta che poveretta è massacrata di minacce e di cose. Io vivo sotto scorta dall'81, da quando sono scampato alle Brigate Rosse. Io 3 anni fa una bomba degli anarco-insurzionisti. Però mi scusi, Saviano penso che farebbe volentieri a meno di non girare con la scorta e di fare una vita normale a 31 anni. Sono affari suoi. Ma perché dovrebbe rinunciare alla scorta? Ma non dico che deve rinunciarsi, anzi deve averne... Ma il problema non è questo. Allora, la libertà di espressione, c'è una Costituzione nel nostro paese. No, ma io infatti mica sto, per carità, stiamo parlando in maniera tranquilla. Ma no, voglio dire, lui può dire, seppur partendo da considerazioni diverse. Voglio, sono libero del mio pensiero. E certo, come no. Altro, ritengo che c'è una sovraesposizione di un personaggio come i tantissimi che fanno qualcosa contro la Camorra. Cioè lei non pensa, per esempio, un ascoltatore prima mi ha chiamato, ha fatto una considerazione interessante riguardo ai casalesi e ha detto: io sono convinto che se non ci fosse stato Saviano, quel romanzo e quella inchiesta, scusi romanzo in realtà non è corretto, cioè quell'inchiesta sui casalesi, in realtà poi lo Stato non sarebbe stato così duro nei confronti dei casalesi. Lei non ci crede? Ma neanche per sogno. Significa offendere lo Stato, significa offendere le forze dell'ordine, significa offendere il governo, significa offendere il Presidente della Repubblica, significa offendere la maggioranza degli italiani che sono delle persone oneste. Poi posso aggiungere come riflessione, ma secondo me ai casalesi di Saviano gliene frega un beneamato. Ma cosa volete che gli importi? Cioè la mafia che... Cioè secondo lei non è minacciato dai casalesi di Saviano? Io sono convinto di no. Quando noi facciamo... Lei è convinto di no? No, io sono convinto di un'altra cosa. Quando noi ci difendiamo il terrorismo internazionale, eccetera, eccetera, con la scorta, non so, a X, a Y, ma pensiamo che Al Qaeda, se volesse colpire Emilio Fede piuttosto che un altro, si preoccupa che ci sono 2 o 3 uomini di scorta. Ma noi possiamo pensare che la Camorra, se avesse delle intenzioni... malvagie, come del resto è la storia della Camorra sempre di tutti quanti, se volesse colpire Saviano, cioè, si preoccupa che c'ha 3 uomini di scorta. Il problema è diverso, però questo qua bisogna lasciarlo decidere alle forze dell'ordine, cioè le forze dell'ordine, il ministero decide chi ha diritto ad una scorta e il grado di pericolo. La scorta, anch'io sono sotto tiro e lo sono veramente, però io la cosa che non capisco, mi scusi direttore, lo sa quello che non capisco è questo, perché chi se ne frega, cioè perché prendersela come lei fa, perché poi lei se la prende con Saviano, come no? Se l'è presa anche con Saviano, non diciamo perché, insomma, poi lei si ricorda bene quello che ha detto e non se lo rimangia, ma lei se la prende anche con Saviano. Come anche, perché con chi altro prende? Con quelli che esaltano Saviano, con quelli che esaltano Saviano, lei se la prende con quelli che esaltano Saviano, ma anche con Saviano. Saviano un mito. Hanno mitizzato Saviano. Saviano va nelle università a predicare, va in chiesa. Perché a predicare? Dice le cose che pensa, lo chiamano per questo, parla, appunto. Fanno male a chiamarlo. E perché fanno male a chiamarlo? Ma perché ci sono altre persone che meriterebbero altrettanto. Cioè dovrebbe guardi che anche i magistrati ci vanno quando va a Saviano, anche i magistrati, anche forze dell'ordine, ma poliziotti. Io non discuto che ascoltare Saviano ci vadano anche i magistrati. No, ma parlano anche loro insieme a Saviano ogni tanto. Come? Parlano anche loro insieme a Saviano, non è che i magistrati non parlano e di Camorra parla solo Saviano in Italia. Sì, ho capito, però ritengo che i magistrati abbiano certamente più diritti e più cognizione di quello che accade del signor Saviano. Qua ha scritto un libro, io non l'ho letto, ma mi dicono che il contenuto di questo libro sono tutti i verbali delle varie inchieste, eccetera, eccetera, raccontato bene. Cioè, secondo lei Camorra non è un gran libro alla fine? Come? Lei l'ha letto Gomorra? No, non ci penso proprio. Scusi, non ha letto Gomorra, come facciamo? No, non ho letto Gomorra, ho letto Pinocchio. Con questo sono libero di leggere quello che vuole. No, ma certo, però insomma, per parlare di Gomorra uno dovrebbe anche averlo letto, ma no? Ma perché? Ma io ho bisogno, dopo 50 anni di giornalismo, di farmi insegnare che cos'è la Camorra da come si chiama lui, da Saviano? Senta, oggi sul Libero, oggi sul Libero... Guardi, io vengo dalla trincea. Lo so benissimo. Non ho mai fatto il portaborsa nella vita. Ma voglio dire, ma io ho bisogno di scoprire da Saviano... Che cos'è la camorra, come si combatte? Addirittura si possono sempre scoprire cose nuove nella vita. Si possono sempre scoprire cose nuove nella vita. Tutti i giorni parlo di mafia, di 'ndrangheta, di camorra. No. Con una differenza, che io non ci guadagno i soldi, lui ce l'ha guadagnati e tanti. Lei insiste anche su questo punto, però non è un punto essenziale il fatto che Saviano guadagni i soldi. Mi sembra che faccia una vita da recluso, può anche guadagnare qualche soldo. Non è, se qualcuno compra i libri, è il mercato, il mercato è bellezza. Io faccio una vita da recluso. Io vengo accompagnato dai carabinieri al mattino alle 9:30 in redazione, esco alle 9:30. Stando tutto il giorno in redazione a lavorare, forse Saviano prenderà più aria di quello che piglio io, ma poi non me ne frega niente, voglio fare il paragone. Io il paragone con Saviano lo faccio. C'è una bella differenza fra me e Saviano. C'è una bella differenza, un percorso. In che senso? Glielo dico subito. Ma perché fare questo paragone? Perché lei, ma non perché me ne frega lei... niente del paragone. Sapete come ho concluso stasera il giornale? Guardate, di fronte a tante proteste, chiedo scusa, considero, e così dichiaro adesso a voi e chiudo, Saviano è un eroe. Vabbè, Saviano questo... No. Questo è per scherzare. No, Saviano è lo Stato stesso, il governo e tutti noi dobbiamo prendere a modello Saviano per quanto riguarda l'ordine, l'amore per la patria, la difesa dei diritti dei cittadini e la lotta contro la mafia. Ma come lo dice? Lui sempre lo dice. Deve avvertire lo Stato, ma che cazzo deve avvertire lo Stato? Ma lo Stato ha bisogno che l'avverta. Sentite, possiamo parlare di donne? Come di donne? Se vuole parliamo di donne. No. Senta, ma mi dica una cosa, ma sì. Che ne pensa della separazione tra Berlusconi e Veronica Lario? 300.000 euro Macherio, che ne pensa lei? Sono curioso. Guardi, sono affari che sono problemi seri di sentimenti che non vanno mischiati con una polemica ridicola. No, ma io non voglio fare polemica, però si sarà fatto un'idea. Io non ne so nessuna idea, non mi faccio nessuna idea, non intervengo in una vicenda che è una grande storia importante di amore, di matrimonio, di figli, eccetera. Posso solo dire che mi auguro, così come si è concluso in maniera consensuale, un giorno si possa, perché no, riaprire quantomeno un rapporto, va bene, che rispetti tutto ciò che è stato, come del resto reciprocamente può accadere, rispetto a ciò che è stato un lungo periodo, un lungo percorso fatto insieme. Tra l'altro la signora Lario pare che abbia detto a Silvio davanti al giudice: beh, dopo questo periodo un po' difficile spero che ci potremo rivedere, potremo rincontrarci. Questa è una cosa molto bella, vede, su questo mi trova consenziente, mi commuove, mi porta ad una riflessione importante, perché io credo nell'unità della famiglia, credo nell'amore, credo che questo sia un aspetto importante della vita. Cioè, secondo lei c'è un futuro ancora per Berlusconi, per Silvio Berlusconi e Veronica Lario? Si possono rincontrare addirittura, si possono incontrare di nuovo? Sono sicuro di sì. Non è che è un'ipotesi che mi faccio, anzi più un augurio, direi. Senta, un'ultima cosa, oggi Fini ha incontrato Saviano. Sì. E gli ha espresso stima e considerazione. Sì, ha fatto bene. Ha fatto bene? Certo, chi? Fini. Certo. A invitare Saviano alla Camera. L'ha invitato oggi alla Camera, proprio oggi? Oggi. L'ha fatta apposta? No, oggi no, era previsto da tempo, era previsto. Appunto. Guarda, sono attento anch'io come lei, quello che succede. No, perché allora avrebbe un altro... Ma poi guarda, sono contento, ma Saviano, guarda, io sono siciliano, quando si porta in processione un santo si chiama la Varetta, io spero che Saviano venga portato in processione lungo il percorso dell'Italia, da nord a sud, dal Manzarano al Reno, da Friuli alla Sicilia, faccia quello che vuole, lui può fare quello che vuole, dire quello che vuole, ma anche Emilio Fede. Infatti sta qua a dire la sua. Ma per carità, questo qua nessuno lo dimentica, però mi fa dire una cosa, direttore, che io queste sue polemiche con Saviano, francamente, non riesco ad afferrarle in pieno. Ma non ci sono polemiche, è finito. Ma come polemiche? È finita la cosa. Guarda, Saviano è... Ma Berlusconi ha fatto bene a dire quelle cose. Berlusconi ha fatto bene a dire. Beatificare, basta. Ma Berlusconi ha fatto bene a dire quelle cose sul fatto che Gomorra. Che ma io quando non l'ho detto. No, sul fatto che Gomorra. Berlusconi ha detto a un certo punto Gomorra fa fare brutta figura all'Italia all'estero. Ha fatto bene Berlusconi a dire quelle cose? Anche lei la pensa così? Allora, tutto ciò che può in qualche modo penalizzare l'immagine dell'Italia, io sono certamente nettamente contrario. Non so che cosa abbia detto esattamente il Presidente del Consiglio. Ma come non lo sa? Lo sa, fa il cronista, cioè fa il direttore di un grande giornale, è stato, come ha detto lei, insomma. Ma eccetera, non sono, io ho letto sul giornale questa polemica inutile, sono d'accordo. Cioè, anche secondo lei Gomorra fa fare brutta figura all'Italia all'estero, questo voglio capire. Gomorra il libro? Sì, Gomorra il film, il libro, tutto. Sì, no, il film è un bellissimo film che ti porta a riflettere, sicuramente. Se il Presidente ha espresso un pensiero su tutto ciò che può riguardare dare un'immagine dell'Italia all'estero non positiva, ci ha messo in mezzo Gomorra anche. Ci ha messo in mezzo anche Gomorra, quindi riterrà che anche Gomorra, anch'io ritengo. Io non, sai cos'è che non ho letto il libro? Ho capito, cioè, questo è un problema. Cioè, no, non è affatto un problema, mi mancherà, guardi. Stasera, no, stasera mi leggo le poesie di Machado. Grazie. Mi leggo Spur River. Grazie, buonasera. Siamo qui 20:51, volata con gli ascoltatori dopo l'intervento di Emilio. Fede, dove andiamo? Andiamo direi a Fabio da Milano, prego. Buonasera. Buonasera. Ascolti, io ho chiamato per questo motivo. Io sono un consigliere comunale di Milano. Com'è che si chiama lei di cognome, mi scusi? Luoni. Fabio Luoni. Ah sì, abbiamo ricevuto una mail oggi, sì, prego, dica. Ecco, niente, io seguo sempre la vostra trasmissione quando posso e ho sentito il dibattito acceso su questo tema e il Consiglio Comunale di Milano settimana scorsa ha votato la cittadinanza onoraria a Saviano. Io sono stato con 41 voti favorevoli, io sono stato l'unico consigliere che si è astenuto, anche un mio collega ha dimostrato perplessità e poi se n'è uscito dall'aula. Il motivo Scusi, della lei è consigliere comunale del PDL? Sì, del PDL. PDL. Il motivo lei della è l'unico, l'unico al Consiglio Comunale che si è astenuto, sì, che si è astenuto sì, sulla cittadinanza onoraria a Saviano. Sì, le mie motivazioni sono queste, cioè io ho la massima stima e apprezzamento per il lavoro di Saviano. Ritengo però che la cittadinanza onoraria sia un riconoscimento, soprattutto in una città come Milano, particolarmente alto, che vada a una persona che ha fatto qualcosa di assolutamente eccezionale. Allora la mia perplessità era questa, era semplicemente questa. Cioè sulla cittadinanza onoraria, lei dice perché diamo noi a Milano la cittadinanza onoraria solo a Saviano. Io avrei preferito una modalità, se proprio si voleva riaffermare un impegno del Comune di Milano, del Consiglio Comunale per la legalità contro le mafie, una modalità che premiasse anche altri. Onore e omaggio anche agli altri. No, ho capito, però, Fabio, è molto chiaro. Io ripeto, non vedo perché su una cosa del genere ci si debba dividere. Insomma, la cittadinanza onoraria non è che sia poi questo merito o questa croce da è un, per carità, una cosa importante, però alla fine se tutti quanti sono d'accordo non vedo perché bisogna trovare sempre il modo per distinguersi dicendo che la meritano anche altri. Sì, la meritano anche altri, certamente, però facciamo una proposta da questo punto di vista concreta, non in generale la meritano anche altri, facciamo una lista di persone che secondo noi la meritano quanto Saviano e poi ne possiamo discutere. Franco, provincia di Modena. Eccomi qua. Dica. Pronto. Veloce Franco. Velocissimo, un secondo. Mi riferisco a quello che ha telefonato su Saviano dicendo che il ministro degli interni Maroni e le forze dell'ordine, cioè cioè nel senso che il libro di Saviano, che io l'ho letto, hanno preso le decisioni di contro la camorra, contro la mafia e tutto quanto. Però il signore ha dimenticato che i magistrati, e lei non ha detto i magistrati dove sono, sì, sono loro che coordinano. Franco, ma certo, ci sono anche i magistrati, vogliamo dire tutti. E va bene, rispondiamo a quel signore dicendo D'accordo, rispondiamo a quel signore dicendo che ci sono anche magistrati, oltre ai poliziotti, al governo, cioè, ci sono anche magistrati che mettono in galera. Ma lo sappiamo, Franco, che magistrati combattono la camorra, lo sappiamo. Il ruolo della Lega dice che... Ma figuriamoci, no, ma come non lo dico? Il merito di Maroni, diamo per l'amor di Dio, le forze dell'ordine un rispetto enorme. Ma sono i magistrati che mettono in galera. Va bene, grazie. Gianluca da Trani, 30 secondi nemmeno, dica. Pronto, salve. Senta, io volevo, diciamo, sono rimasto abbastanza sconcertato dalla pochezza degli argomenti di Emilio Fede, che non ha neanche letto il libro, quindi diciamo parla di cose che non conosce. Mi ha colpito una questione rispetto alla scorta. È vero, come dice lui, che non sono certo due o tre uomini armati a impedire un attentato? Secondo questo ragionamento però togliamo la scorta a tutti, perché in ogni caso chi vuole fare un attentato riesce a farlo. Ma devo chiudere, Gianluca, mi dispiace, devo chiudere, ci sentiamo domani 18:30. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio.